voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. The Oaks and Mesa Vista. This is exciting, isn't it? Stunning. Just stunning. You know, sir, if we're not gonna have any trees, maybe we should consider changing the name. No, I love the name. Sarò presente e poi domani ancora giorno c'è chi dice che ritorno. Non c'è problema, mondo felice. C'è chi ha fretta, c'è chi aspetta, c'è chi è seduto, e chi deluso. Ora cammina e trova un senso. Ci proverò serenamente con tutto quello che posso sempre. Arriva da Torino la musica che ha aperto la seconda parte di Eclettica di quest'oggi, qua, sulle frequenze di Rock FM, come tutti i giorni della settimana, tra le 19 e le 20, in compagnia di Giulio Cappardone. Arriva da Torino in quanto è un'anticipazione di quello che sarà il secondo album di Vittorio Cane, con l'aiuto nel brano in questione di un altro torinese, ovvero sia di Mao. E direi che è giunto anche il momento di riascoltare i Bar con The Song is the Single. Sono troppe le settimane che non passano all'interno di Eclettica. Everyone knows the rock and roll is the language of night, but this got made in the day. It was bright. The drums are fully shaky, but the bass is more tight. And the song is the single, and the single sucks. It never sounded good. It always sounded bad. What is the song? The pop song. Is it a conduit to give? record. And what if it's blank white with really no cover? And that leaves the meaning clear. Wait, it's more vague with no hints as to intention. Except that maybe the intention was to seem vague, or not to have a cover. Maybe just there's no cover. And if the children care, then the children are pissed. You said you wanted pop, but instead you got this. Oh my god, what do you do? The song is the single and the single sucks. It never sounded good. It always sounded bad. The air here dries out my skin, but I still have a feeling. I'm still filled with feeling. I just want to hold someone. I just want to hold someone. I just want to hold someone. I just want to hold someone. I just want to hold someone. I just want to hold someone. I just want to hold. But this got made in the day, it was bright. The drums are a lot looser, like falling apart. And the bass is a scratch on your skin, a big scratch, but you'll heal. The skin is intact, and the song is the single. And the single sucks, it never sounded good. It always sounded bad. Get away with years of bells. In short form, the conduit is cracked, but at least it's for sale. I'm sorry, Steve, I had to say it. We've had to since high school. It's been a while now, and it's hard to see what that means until you really get to talk. You just hear so much, and you see so much, and you hear so much, and you see so much. It's a lot, but you hold it. And piano. I had just gone through the breakup, Armageddon breakup. The timing was bad, but there's never good times for bad things to happen. Maybe better than worse, but bad is at all. Always bad is bad enough. Unequipped was a blessing for space. But that and the prior 6 months left my body crashed and caught me on the plane. It happens. I hear it actually happens a lot. The other germs and the bad air. I went to England with Upset the Rhythm. The label brought me over to tour. I played 4 shows and a radio. And I got sick. I got so sick. I thought I would die, I was sure I would die. So we canceled 2 shows. So sick in the travel lodge in Leeds. In the rain, sobbing, it happens. Then we canceled Northampton and Glasgow. I'm so sorry if you cared, but this is what got made. Not really, but sort of this got made in the place of a visit. Stole the whole song from your biggest band. The title track from the 3rd record. But swapped the organ for bass. Kinda sounded more like the big boys anyways. Skate rock from Texas. But this is the single and the single is spoke. The record is sung. The song is the single and the single sucks. It was shown. Lucidi. Lucidi. Lucidi stivali di cuoio. Schiocco di frusta di una donna bambina nel buio. Arriva veloce il tuo servo, non lo abbandonare. Colpisci, padrona cara, e cura il suo cuore. Peccati vellutati di piaceri da lampione. Vai in cerca degli abiti che lei indosserà. Pellicce d'ermellino l'adornano austera. Severin. Severin è lì che ti aspetta. Sono stanco, sono esausto. Potrei dormire 1000 anni. 1000 sogni che mi potrebbero svegliare i colori diversi fatti di lacrime. Bacia lo stivale di cuoio lucido, lucido, lucido cuoio nel buio. Lecca le cinghie, la cintura che ti aspetta. Colpisci, padrona cara, e cura il suo cuore. Severin, Severin, parla sottovoce. Severin, inginocchiati. Assaggia la frusta. In amore non si risparmia. Assaggia la frusta. Ora sanguina per me. Sono stanco, sono esausto. Potrei dormire 1000 anni. 1000 sogni che mi potrebbero svegliare. I colori diversi fatti di lacrime. Lucidi. Lucidi. Lucidi stivali di cuoio. Schiocco di frusta di una donna bambina nel buio. Arriva veloce il tuo servo Severin. Non lo abbandonare. Colpisci, padrona cara, e cura il suo cuore. Questa era Venus in Furs di Lou Reed. You know, in certain Asian cultures, Carl, the husband takes the wife's name. Wait a minute, you just said a man's legacy is his name. All right, what about a hyphen? Hyphen? Yeah. Oh, I could ask Molly, but I don't think she... Wait a minute. You mean me? You mean I'm supposed to hyphen? Well, then you can still use your own name, only you'll be hyphenating it. It's win-win. With all due respect, not for me it isn't, sir. All right, forget it. You're obviously upset about it. And I'm sorry you brought it up. I see you shivering from the cold. You slip in front of me in the queue. The people behind are staring. And you get the privilege of being with me. Like I get the poetry in motion. What does it matter how I treat you? says the world is crashing down around us. The sadness that comes in the mornings will be washed away. You'll see to that, but how long will it last? I believe in the way that you move. I believe in the way that you touched me somehow. I believe in the way that you move. The sadness that comes in the night times will fade away. You'll see to that, but how long will it last? And I believe in the way that you move. And I believe è vero che se sfogliamo i giornali in questo periodo, i nomi che troviamo in termini di motori italiani sono soprattutto Ferrari e Fiat per motivi diversi. Ma siamo orgogliosi anche noi italiani del nome Maserati e siamo contenti che un gruppo statunitense di Athens, Georgia, abbia deciso di adottarlo come proprio nome. E quindi dopo i Low vs. Diamond e Jeremy Wormsley, i due ultimi brani in sequenza, andiamo ad ascoltare un estratto dal nuovo disco Inventions for the New Season, uscito per Temporary Residence appunto da parte dei Maserati, che se n'erano stati zitti per 5 anni e sono ritornati con la loro formula, uso un termine desueto, la loro formula di post-rock. Thank you. E quale costume indosserà mai la povera fanciulla a tutte le feste di domani? Un vestito di seconda mano, preso chissà dove, a tutte le feste di domani. E dove andrà e cosa farà allo scoccare della mezzanotte? Si trasformerà ancora una volta nel pagliaccio della domenica e piangerà dietro la porta. E quale costume indosserà mai la povera fanciulla a tutte le feste di domani? Certo le sete e i lini dei vestiti di ieri a tutte le feste di domani. E che se ne farà di tutti gli stracci del giovedì quando arriverà il lunedì? Si trasformerà ancora una volta nel pagliaccio della domenica e piangerà dietro la porta. E quale costume indosserà mai la povera fanciulla a tutte le feste di domani? Perché la ragazzina del giovedì è il pagliaccio della domenica, per il quale nessuno piangerà. Un sudario annerito, un vestito di seconda mano, di stracci e seta, un costume adatto a quelli che siedono e piangono per tutte le feste di domani. Questo era All Tomorrow's Parties di Lou Reed. Eclettica. stagione numero 13, settimana numero 40, volume numero 1. Indice: Blitz and Trapper, Air Traffic, Scott Matthews, Moose, Frog Eyes, Fujiya e Miyagi, The View, Vittorio Cane assieme a Mao, Bar, Law vs. Diamond, Jeremy Wormsley, Maserati, Simple Kid. Giulio Caperdoni vi ringrazia, vi saluta e vi rimanda domani, sempre alle 19 su Rock FM.